Ok, allora volevo parlare della cosa che ci distingue in questo periodo, no? Abbiamo una visione per certi aspetti del mondo molto simile, ma una posizione nei confronti del mondo che invece è un po' diversa, anche se non del tutto, perché la condivido anch'io, la sua posizione. La sua posizione è: dunque, nel mondo le cose stanno andando così male e la situazione è così drammatica. Per cui anche le persone che cercano di fare dei cambiamenti in realtà si aggiustano al massimo il colletto della camicia, si tirano, ma poco di più. Per cui lui dice: ci vuole tutta. Allora, data questa situazione, no, che condividiamo, la posizione di Attilio è questa, cioè è così scoraggiato dal modo di reagire in generale delle persone, che ormai dice: ma io devo pensare alla mia evoluzione, perché se non faccio quella, È già tanto se è riesco a già pensare tanto, alla è mia, già e l'unica tanto. cosa che posso fare è essere di esempio agli altri. Sì. È già tanto, cioè, magari. Sì, allora, Questa ok, è non come so. dire, certo, sono in mare, c'è un mare agitato, non è che posso mettermi a salvare a destra e a sinistra, ci vuole tutta che riesca a nuotare io, va bene. Io la vedo un po' diversa, io credo che la mia evoluzione sia una coevoluzione, cioè la mia evoluzione un po' è qualcosa che avviene dentro un gruppo, perché il gruppo mi fa riflettere, perché le persone mi fanno da specchio, quindi c'è un po' di Io differenza su vorrei questo. spiegarti l'ontologia però del mio pensiero, perché Sì, sennò così non si capisce sì, molto bene. Mi sembra un pennarello grande che sì, sì, tiene un pezzettino di con carta. carta, Guarda, sì. passo la lavagna, se è lo stesso. Sì, Fantastico. sì, sì. Allora, se questo è il mondo, Sì. Giotto sarebbe fiero di me, se questo è il mondo, diciamo che noi siamo tutti quanti come anime perse sparpagliate qui dentro. Il fatto è che questo mondo è circondato da quello che tu chiameresti campo morfico, che io chiamo essere o minare. Poi vi spiegherò Sì. Sì. Sì. insieme anche cos'è l'essere o minare. Il mio aiutare gli altri è semplicemente, io sono questo puntino Sì. qua, Sì. riconnettermi qua, perché l'effetto di una singola È riconnessione qua enorme ha una ricaduta enorme sul su tutto, tutto. sì, certo. Perché tutto il gioco dell'uomo è riconoscere il suo creatore ed essere riconosciuto dal suo creatore. Questo aumenta l'ecologia di tutto il pianeta. Lo sforzarmi, io personalmente, di creare un gruppo e con tutto il gruppo fare questa operazione è Un'impresa. molto più faticoso per i ben noti motivi. Per Cioè, ben noti motivi. intendo dire, un gruppo motivato Ce la fa. lo fa, ma lo fa già da sé. Allora cosa succede nei gruppi di studio, per esempio, di alchimia? Scusate, mi riferisco sempre a l'esperienza di laboratorio non è un'esperienza sociale, è un'esperienza assolutamente solitaria. Quello che succede tra te e la materia è tra te e la materia, punto. Chi collabora, collabora poi perché parla di alcune cose con le altre persone che sono sul loro sentiero. E allora hai dei punti in comune per capire se dei passaggi sono corretti oppure no. Ma fine della trasmissione, non c'è più che questo scambio. Una socialità invece alchemica o di salvazione o di comune, a me viene da dire: cazzo, non c'è riuscito Gesù, non c'è riuscito Allah, non c'è riuscito Buddha, non Insomma, c'è non è che non riuscito sono Maometto, riuscito, voglio eh. dire. Vedo grandi Insomma. difficoltà che io riesca a fare qualsiasi cosa. Uno si è fatto mettere in croce, quell'altro, cioè voglio dire, ragazzi, abbiamo degli esempi molto più grandi di me. Cosa posso fare io? Poco o nulla. A meno che non essere di esempio. Che cos'è il mio essere di esempio? Cominciare a dire alla gente: guarda che per esempio questa storia qua non te l'ha mai raccontata nessuno. Nessun prete ti dirà mai che tra te e Dio c'è un essere nominale. Cerca di metterti in relazione con un Dio tramite lui, facendoti saltare quella che è il genio della specie. Il genio della specie è qualcosa che abbiamo tutti dentro, è qualcosa che ci parla. Questo è raggiungibile da noi ed è questo che parla con Dio, non io. Allora, un messaggio del genere tu incominci a dirlo, magari il 90% delle persone non ne pippa niente, ma al 10% magari dice: ma come mai dici questa cosa qui? Da dove ti esce questa idea che non l'ho mai sentita? Ecco, questo se vuoi è il La mia massimo. domanda è, se Gesù, Buddha e altri non hanno ottenuto quello che volevano, Gli alchimisti l'hanno fatto? Sì, in via solitaria. E per... come fai a dirlo? Quali test, quali prove hai? Se tu lavori con la materia te ne accorgi. Purtroppo non è riferibile. No, ma questo ho capito. Tu puoi ottenere dei risultati con la materia, va bene. Ma come fai a dire che quel lavoro lì poi ha una ricaduta? Che prove ci sono? Prove non ce ne sono. Prove agibili in questo mondo. Ci risiamo un'altra volta. Finché non apri questa porta, no, finché tu non riesci a creare un varco che ti porta nel mondo immaginale, cioè nel tuo mondo dell'anima, tu non riuscirai ad avere mai nessuna prova. Però lì le puoi avere. La prima prova che tu hai è che ti accorgerai che se tu apri questa cosa, quando tu tocchi qua, qualcosa risponde qua, quando tu tocchi qua, qualcosa risponde qua, da un'altra parte. Allora incominci a dire, cazzo, ci sono delle relazioni. Quello che dicevamo nel mazdeismo, quando si parla di montagna, non si dice mai come si chiama questa montagna, ma chi è questa montagna? Perché ciò che è montagna qua, nel mondo immaginale, è qualche cosa d'altro, la cui necessità nella terra, nella manifestazione, è un fenomeno orologico di qualsiasi tipo. Quindi, e infatti, da sempre tutte le civiltà hanno come punto di riferimento un momento orologico, un asse del mondo che li porta fuori dal mondo, quella lettura che abbiamo fatto di Courbet, che sia il Monte Meru, che sia l'Ararat, che sia il Cerro Torres, che sia quello che vogliamo, in antichità si sapeva molto bene che una montagna era una presenza del mondo immaginale che serviva da guida, motivo per cui Uluru è sacro agli aborigeni, pur non essendo alto, ma essendo il punto più cospicuo in una piana di migliaia di chilometri, e quindi per legge d'analogia ha la funzione del monte alto. Gli dèi sono lassù, sono stato, vi confermo che è vero, che è assolutamente così. Ma se non apri queste due evidenze qui, non ce la farai mai. Detto in un altro modo, con la mente non ci arrivi. La nostra mente, quando valuta un vino, come dire, ne fa l'analisi chimica. Per riuscire a sapere che cos'è l'emozione lo devi bere. Allora l'analisi chimica te la dimentichi e dici, cazzo, che profumo di sole, di vita, di... Ecco, è qua questo profumo. Certo, qua. Ma l'obiezione non è un'obiezione, è una confrontazione. La domanda. La domanda è la strada. Ma questa è esattamente la stessa cosa che dicono i mistici. Cioè, se tu prendi un mistico cristiano, ti dice, ma io mi rapporto con Gesù, è qualcosa che vivo io. E attraverso questo rapporto speciale che mi si apre il mondo. Esattamente. Ok, benissimo. Lo stesso potrà dire un buddista, dice, è inutile che ti parli di meditazione, se non, la meditazione è come la matematica, se non pratichi la matematica per 10 anni non puoi parlare, è chiaro che non ti posso spiegare cosa può vedere un matematico. Quindi sono tutte equivalenti fino adesso queste cose, quindi ci sono persone che sono entrate dentro altre dimensioni della coscienza, come direbbe Ken Wilber. Quindi noi abbiamo una coscienza più, diciamo, comune, quella più ordinaria, via via, con stati di coscienza sempre più allargati, fino a che ci consentono di comprendere tutto, no? Se capisco bene, l'alchimia è una di queste strade qui, e sì, sicuramente non può essere l'unica. No, la differenza qual è in questo momento? In questo momento storico, sì, secondo me, noi abbiamo una pluralità di fonti che sono altamente distorte. Sì. Allora, chissà che cazzo ha detto Gesù, ammesso in un concesso, 2000 anni fa, e che cosa è arrivato a noi oggi dal messaggio di Gesù. Chissà che cosa ha detto Buddha 1400 anni fa, o Maometto, e che cazzo è arrivato qui da noi. Allora, perché io dico l'alchimia, la musica, la geometria e la grammatica? Perché non sono verità rivelate da uomini e da altri uomini, sì, che hanno interpretato e hanno scritto, sì, sopra questa cosa lì. Sono lì da vedere. Tu puoi avere un rapporto diretto con ciò che c'è lì dentro, senza bisogno che nessuno ti dia, ti faccia da Rex Pontifex, falso e traditore. Okay. Però questo rapporto diretto io ho l'illusione di averlo con le emozioni delle persone. Cioè, se io lavoro con una persona e vedo un cambiamento nell'emozione, è una cosa che vedo, cioè non sarà un cristallo, ma è un'esperienza, certo, che si vede. Hai lavorato sul centro emotivo della persona, sì. Allora se mi rifaccio solo la fisiologia di Gurdjieff, sì, lasciando perdere, sì, l'uomo di luce e via dicendo, hai lavorato col centro emozionale della, sì, persona, nada más, sì, non col centro spirituale. Il centro emozionale... Se non apri il centro emozionale, il centro spirituale, cosa può fare? Cioè, voglio dire, una persona... E questo è il limite. che noi perdiamo, scusami, io la dico come mi esce, certo, la dico certo. Noi perdiamo tempo in questo tipo di rapporto. Allora tu passi tutta la tua vita ad aprire una parte del cuore di una persona, non il cuore, attenzione bene, tu passi la vita ad aprire una parte del cuore della persona, cioè esattamente l'esca che è stata messa sull'amo per far capire che esiste un pesce molto più grande. L'amore, come noi lo definiamo tra gli uomini, non è nient'altro che un ricordo di quello che è l'amore universale. Quando tu hai aperto il cuore di una persona in questo modo, normalmente, come dirti, gli hai aperto il cuore verso gli altri uomini. Se tu provi a considerare l'amore come una forza, come qualche cosa senza gli uomini, e questa è una riflessione che vi invito a fare molto bene, provate a immaginarvi una terra senza gli uomini, con tutte le forze che agiscono senza gli uomini, incomincia ad avere un quadro molto più chiaro. Allora, l'uomo mi serve per andare oltre l'uomo, ma molto in fretta, molto velocemente. Sì, ma concordo, perché per esempio la fase di innamoramento è una fase in cui si dice che si apre il cuore, temporaneamente si apre una finestra, e poi dopo poco si richiude, ma è un'occasione, è un'opportunità, che poi di solito viene rimangiata dal copione delle persone. Però la cosa è, ma voglio dire, io ho visto persone nella mia vita che avevano un'esistenza infernale. Sì, ma scusate, e dopo si sono illuminate. Aspetta, si sono illuminate e dopo hanno un'esistenza in cui questo inferno non c'è più, cioè stanno già infinitamente meglio. Sì. Questo è un grande aiuto. No. E questo perché no? No, perché le hai aiutate esclusivamente su questo piano qua. Ma non è sufficiente. Ma i piani non sono separati. Non è sufficiente. Certo che non è sufficiente. Non è sufficiente rispetto a questo discorso. Cioè, ma la domanda è... No, la domanda è questa, scusa. Aspetta, non tanto per lui. A lui hai fatto un gran bene, Mauro, non ci sono dubbi. Sì. È a te che non hai fatto bene, non è a lui, è a te. Sei tu che non sei andato di qua, hai capito cosa intendo dire? Sei tu che stai perdendo la tua perla d'Oriente. Scusate, è un linguaggio mistico il mio, per cui ve lo do come linguaggio mistico. Ognuno di noi, secondo... Mi rifaccio adesso alla mistica persiana, ne prendo una qualsiasi, quella persiana è quella che amo di più. Ognuno di noi singolarmente è sceso qui per un compito che riguarda lui singolarmente, non gli altri. Se tutti quanti, 6 miliardi che siamo, ci ricordassimo questa cosa e tutti quanti facessimo questa semplice cosa, che bel mondo che avremmo. Ma non possiamo incominciare a dire tu ricordati della tua perla, tu ricordami della mia, che io ricordo a quell'altro della sua, perché non è così che funziona. Così tu non hai il riconoscimento e non vieni neanche riconosciuto. Allora, torno lì, sicuramente hai fatto un gran bene a questa persona che sta sicuramente molto meglio, ma la tua vita, la tua, il tuo rapporto col tuo creatore, dov'è in tutto ciò? Non c'è. Questo è il punto fondamentale della mia mistica. Il riconoscimento tra me e il mio creatore. Nel momento stesso in cui io lavoro con una persona, imparo chi sono io. Non è che la persona... Forse... Non so, posso finire solo questo. Per capire chi sono io e per cambiare io, rapportandomi con un altro essere umano, il modo con cui io parlo con lui mi rivela chi sono. E se non parlo in un certo modo, cioè per esempio, più empatia sviluppo, più ho capacità di comprendere un'altra persona, più posso aiutarla, meno ce n'ho, meno posso aiutarla. Quindi, anche semplicemente aiutando un'altra persona, io allargo la mia possibilità empatica. Empatia che è nei confronti di quella persona, ma nel momento che vedo quella persona non come un singolo, ma come un'espressione di qualcosa di molto più ampio, per esempio, io non vedo i problemi di una persona come di quella persona, li vedo come problemi universali. Infatti da un po' di tempo non parlo, quando una persona dice io il mio problema è questo, guarda, lasciamo perdere il mio, c'è un problema, è un problema che con quante persone condividi, probabilmente con quasi tutti, andiamo alla radice di questo e quindi andiamo in situazioni di carattere universale. Quindi direi che da un po' abbandonato l'idea che una persona bisogna aiutare per il suo problema, in modo da convincerlo che c'è un mio grande con una casa di cui ci dobbiamo occupare tutti, perché se no, ecco, no, cerchiamo di portare via via da questa una consapevolezza che il mio problema in realtà è un problema universale, generale, cioè un problema di livello di coscienza, e che quindi io vedo nella sofferenza delle persone una grossa molla per poter evolvere, perché la gente se non evolve, cioè voglio dire, soltanto quando è messa all'angolo che non può più fare nient'altro, che è disposto a metterci un po' di energia. Allora nel momento che tu, nel momento che quando è messa all'angolo, tu gli dai una mano ad uscire da quell'angolo lì, e se lo sai fare, sai come muoverli, è possibile, non è certo naturalmente, che scatti qualcosa, cioè che questa persona comincia a vedere il mondo in altro modo. E magari non subito, magari fra 3, 4, 10 anni quella persona faccia dei salti di livello di coscienza davvero. Questa è una via che conosco, quella che dici tu non la conosco ancora. Magari io sono interessatissimo a capire di più. E la premessa che abbiamo fatto prima, non dobbiamo convincerci in una maniera assoluta. È per capire le posizioni. Sai, è un po' come se c'è un bel esempio che fa Idris Saha, che è un sufi moderno. È come se in antichità gli uomini sapessero nuotare, e siccome sapevano nuotare, il fatto di vivere su un'isola non gli creava nessun problema. Quando volevano, se andavano a nuoto da qualsiasi altra parte. Poi, siccome sapevano nuotare, avevano coscienza dell'acqua, sapevano anche costruire barche, ovviamente, anche il primo passaggio è stato quello di capire che io galleggio, se galleggio io galleggio al tronco, e così faccio tutta una serie di cose del genere. E quindi a questo punto il mondo diventa un qualche cosa di altro tipo. Cancella tutto questo, fino al punto in cui addirittura nuotare diventa una religione proibita. Anzi, finisce al rogo se tu ti fai vedere nuotare o ti fai vedere costruire. Certo. Allora questi uomini che stanno su quest'isola sono isolati dal tutto. Sì. Se ricalo questa cosa, che è molto vera, nell'esempio di quello che tu mi dici, sì, tu insegni alle persone su quest'isola a stare meglio sull'isola, ma il problema non è questo, il problema è un altro, imparare a nuotare. Allora impara a nuotare e poi insegna a nuotare. Questa è la mia visione, che chiaramente non è la tua, quindi non ti sto dicendo che tu devi fare questa cosa qui. Non ho capito. Però quello che fai tu, secondo me, su quel piano non serve. Serve perché fai stare meglio delle persone, e sicuramente questo ha una sua ecologia importante, perché magari uno dopo un po' non accoltella più la moglie, ma capisce che il mondo è, quindi sicuramente serve, perché sennò avremmo tutti dei pazzi. Nel mio schema di riferimento è tempo perso, è il mio. Sì. Però troviamone uno comune, voglio dire, perché poi, come io dico le cose, l'altro limite che abbiamo scoperto è non fruibile. Sì. Come le dice lui, è fruibile. Beh, io parlo, mi sono abituato molto a farmi capire dalle persone, ci ho dedicato tutta la vita. A me non interessa. Però a te non sembra che le persone capiscano. Sì. Perché? Perché passi su un altro piano, cioè perché come è inutile. Sì. Già, è per quello che non ti sei occupato tanto della divulgazione, perché tu come bypassassi le cose? Aspetta.